Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia a tutti voi l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Il pomeriggio lo avete chiuso con Edo dopo averlo iniziato con Max De Rio, invece mio compito è quello di accompagnarvi verso la sera, dove vi aspettano Marco Garavelli, Claudia e Maurizio Faulisi e Giulio Caperdoni a tenervi compagnia per un'ora tutte le sere fra le 19 e le 20 con Eclettica, che vuol dire musica ma anche letture e sprazzi cinematografici. Notazioni. Sulla S in un'ora di traffico. Un tipo di circa 26 anni, cappello floscio con una cordicella al posto del nastro. Collo troppo lungo, come se glielo avessero tirato. La gente scende. Il tizio in questione si arrabbia con un vicino. Gli rimprovera di spingerlo ogni volta che passa qualcuno. Tono lamentoso, con pretese di cattiveria. Non appena vede un posto libero, vi si butta. Due ore più tardi lo incontro alla Cour de Rome, davanti alla Gare Saint-Lazare. È con un amico che gli dice: dovresti far mettere un bottone in più al soprabito. Gli fa vedere dove, alla sciancatura, e perché. Questo era l'incipit di Esercizi di stile di Raymond Queneau. It's on Pascal's wager, we send Sergeant Major to fight. It would be nice if we took his triangle and we could find new angles more violent and wonderful. Broken relations to absolute nations above. When you Stop that! Ew, that's not right. Are you done? Huh? Do you have an issue with me? Huh? Do you have an issue with me? Because if I have a problem with somebody, I don't pee on them. Okay? All right? You had a dream about loss within the fruit there are worms, yet still a vow. Good night. You had a dream about love. Could it be you're the one who is waiting patiently for me to disregard caution, to feign deafness to wisdom? Could it be you're the one who is waiting insanely for me to bind your limbs stoutly, to feign deafness to nome assolutamente nuovo per il 2008 e un altro invece ormai consolidato negli anni. Sono questi due brani che vi siete già ascoltati in Eclettica per quanto riguarda questa prima parte. Non ne rimangono molti perché ci sarà un brano lunghissimo che vi attende. Comunque abbiamo aperto con Friars, giovane 18enne londinese, Friars ovviamente è uno pseudonimo, ascoltato con Happy, per poi proseguire con la band di James Stewart, ovvero sia Shoo Shoo, I Do What I Want When I Want, e questo è il titolo del pezzo estratto dall'ultimissimo album. Ora è la volta di una formazione di Milwaukee che esiste dal 1998. Chiedo attenzione a chi ama gruppi come gli Explosions in the Sky oppure Godspeed You Black Emperor. Ecco, ora abbiamo un terzo nome da aggiungere e così creare una triade, il nome dei Collection of Colonies of Bees. Anche il nome è molto lungo. Il pezzo supera gli 11 minuti, ma ve lo prometto, non vi stancherà. È un pezzo estratto dal loro disco che è uscito il 22 di gennaio, quindi da pochissimi giorni, per l'etichetta Radium, album intitolato Birds. Il pezzo si intitola Flock's Third. Thank you. Sono veramente curioso di avere il vostro parere, sia che siate fedeli ascoltatori di Eclettica, sia che siete passati da queste parti per caso e siate rimasti ipnotizzati da questo brano, per poi scoprire che durava così a lungo, più di 11 minuti. Collections of Colonies of Bees, è questo il nome della formazione che vi siete appena ascoltati sulle frequenze di Rock FM. Questa è Eclettica, in compagnia di Giulio Caperdoni, a cui potete far sapere quanto appena chiesto all'indirizzo di mail giulio@radiorockfm.com. Ed ora proseguiamo con Kelly De Martino, questa è Bumblebees. I would swallow bumblebees for you. I've been swallowing bumblebees for you. I don't think you even noticed. I don't think you even know. Stop. chissà se mi rimpiangerai. Sono felice, sono tanto allegro.